Oh, cari amici, mentre mi accingo a farvi dono di una parola del Vangelo, Matteo 24, 42, mi viene proprio da ringraziare Dio, perché mentre dono a voi ricevo io un sacco di doni. E la parola è questa: il Signore Gesù disse, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Poi lo ribadisce, se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte arriva il ladro, veglierebbe. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Mi ha preso molto questa frase. Anche perché una volta veniva predicata molto di più. Si invitavano anche noi quando eravamo ragazzi o anche da adulti a stare attenti. Io mi ricordo che quando ero bambino, quando ero ragazzo, ci dicevano vegliate perché si può morire anche stanotte, anche quando si va a dormire. Non era terrorismo. Era un invito a stare in grazia di Dio. Io ho provato qualche volta ad andare a letto senza aver fatto pace con papà e con la mamma, per esempio, no? E non riuscire ad addormentarmi perché dico, e se il Signore mi chiamasse, come mi presento? E allora, se possibile, quando ero anche un po' piccoletto, andavo in camera del papà, mamma, ti chiedo perdono. Quando diventando più grande, magari avevi anche un po' di vergogna a fare questo, e magari chiedevi perdono nel tuo cuore, perché avevi la sensazione che davvero il Signore può venire all'improvviso. Oggi questo è scomparso dal nostro orizzonte. Oggi siamo tutti immortali. Tant'è vero che quando muore una persona, sembra che Dio ci abbia fatto un torto. Sembra che Dio ci abbia fatto un torto, io l'ho già predicato, ma lo predico ancora perché, ripeto, gli insegnanti devono ripetere. Ero andato a dare una benedizione a una salma di un uomo di 91-92 anni e lì in casa viveva, era celibe, viveva con una sorella nubile di un anno minore di lui. Dopo che ho dato la benedizione, questa donna dice, ma io sono arrabbiata col Signore. Oh, caspita, perché cosa ti ha fatto il Signore? Non doveva prendermi mio fratello. Dico, sorella, ma avete 180 anni in due. Ma ti rendi conto? Io l'altra settimana ho fatto il funerale di una ragazza di 17 anni. Muoiono persone di 50 anni. No, il Signore non doveva farmi questo torto. Amici, è così. Noi siamo. Abbiamo il diritto alla vita, su tutto, guai, neanche Dio può. Cari amici, abbiamo bisogno di tornare un po' a leggere il Vangelo, a meditare il Vangelo, vegliate, vegliate. Magari non andremo più a dormire dicendo non mi sveglierò più stanotte, magari, o domani. Però io ne vedo di gente che di colpo, pam, un ictus, un infarto, un incidente. Lasciamo perdere anche sul lavoro, che pure ne incontro anch'io. Incidenti con la macchina, incidenti in tutti i modi. Dobbiamo vegliare perché è il Signore che bussa e mi dice: sono qui. Sei pronto? Noi da una certa parte la società di oggi ci abitua a stare allerta, no? A vegliare, a vigilare. Tutte le assicurazioni che noi facciamo, che cosa sono? Se non dire non si sa mai, sto pronto anche all'imprevisto. Le cancellate e le inferriate che mettiamo sulle nostre finestre, che cosa sono se non un vegliare? Dice non si sa mai, i ladri e così. Peccato che per la nostra anima, anzi per la vita eterna, noi non ci pensiamo più, non ci pensiamo più. E allora io ho voluto andare a cercare sulla Bibbia, per questo dico, ringrazio Dio perché mentre parlo a voi evangelizzo me stesso. Sono andato a cercare sulla Bibbia e sono rimasto incantato su un dizionario biblico da quante occorrenze ci sono alla parola vigilanza, vigilare. Ma tante veramente, per esempio, adesso non vi dico le citazioni, fidatevi comunque, vi dico solo la prima, Efesini 5:15. Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, interessante, eh? Vigilate sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente. Perché i giorni sono cattivi. Qui ci si potrebbe far su un romanzo, qui ci si potrebbe far su una predica, amici. E io vi suggerisco ancora una volta, se volete, o con questi miei pensieri, oppure da soli, ma meditate, meditate voi, carissimi, meditate voi, perché dovete farlo voi. Neanche se ve lo faccio io, il mio è solo un incentivo, ma dovete voi star lì davanti al Santissimo Sacramento, approfittatene. Pure Paolo a Timoteo, vigila su te stesso, sul tuo insegnamento. È interessante, per non di stupidate. E sii perseverante. Così facendo, salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Pensate se un genitore dovesse mettere in pratica questo. Vigila sui tuoi atteggiamenti, papà, mamma. Vigila sul tuo parlare. Vigila su quello che insegni ai tuoi figli. Così facendo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Capite? Ah, ma ce n'è in giro, ce n'è in giro. L'ultima citazione che vi faccio è della prima Pietro 5:8. Questo è famosissimo, eh? Famosissimo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. Questa è la più famosa, questa è la più famosa. Ma dobbiamo sempre, e infine, dove si parla di vigilanza anche nella preghiera, dice, pregate, Luca, per non entrare in tentazione. Gesù che dice nell'otto, alzatevi, pregate per non entrare in tentazione. Ma quanto uno starebbe qui a mangiarsi la parola di Dio, Isaia, la mia anima anela a te di notte. Il Siracide, di buon mattino prega davanti all'Altissimo. Romani, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno. Scusate, io mi sto perdendo via, sono così belle. Io vorrei ancora rubarvi 2 minuti per tentare se riesco di applicare questo, perché noi possiamo meditare, possiamo ascoltare, dice va bene. E poi quando chiudo il libro, allora io mi permetto di mettere lì sul tavolo alcuni atteggiamenti. Primo, vigiliamo nel bere. Nel bere. Quante persone io ho visto in gamba che in certe situazioni, o pranzi di nozze, compleanni, feste in famiglia, alzano il gomito. E poi fanno un gran brutto vedere. Non hanno vigilato. Ancora, amici, vigiliamo nel possedere. Basta, quando abbiamo una certa età, cominciamo a sfoltire le nostre case. Regaliamo via. Io che ho fatto due traslochi da sacerdote, quante cose ho regalato via anche di valore. Ho fatto felice la gente, oh grazie, ma quel quadro lì davvero lo regala a me? Certo, io ormai sono sul viale del tramonto, ma no, ma non dica così. Sì, non dica così. Regaliamo via. E poi non acquistiamo più. Non acquistiamo più, siamo vigilanti anche nel possedere. Siamo vigilanti anche con gli occhi. Se sappiamo che accendere la televisione a una certa ora, girare per certi canali, facilmente ci presentano tentazioni per la purezza, vigiliamo, non facciamolo. Ecco, per questo io concludo. Ho fatto solo tre applicazioni sul bere, sul possedere, sulla televisione. Ma potremmo aggiungere anche sul carattere, vigila, sul tuo carattere, non su quello degli altri. Riassumerei con un verbo che vi lascio come dono e che vorrei che non ci uscisse di mente. Il verbo è questo: taglia, taglia. Dal bere, taglia, dal possedere, dagli un taglio, dal girare i canali sulla televisione, dagli un taglio, vai a dormire che ci guadagni, sul tuo carattere, ma dagli un taglio. Ciao amici, vigilate, vigilate, ci diceva oggi la lettura, perché il Signore viene, oh lasciatemi dire un'altra cosa. Quando vi parlo non finirei mai. Sento che Gesù davvero ha fatto i sacerdoti anche come maestri, maestri. Vigiliamo su un altro particolare di cui quasi nessuno parla. Io che faccio il maleducato, ve ne parlo. Di fronte alla morte. Quanta gente, no? Si ammala a una certa età. Si ammala, va in ospedale, deve subire un'operazione, che cosa? Chiede preghiere. Io prego sempre tanto, anche per questo, li affido al Signore, anche se dico sempre. Poi, quando poi ritornano a casa, stanno bene, io sono così sfacciato che gli dico: Oi, eri arrivato al traguardo, eh? Ma il Signore è stato buono? E ha spostato il traguardo 1 chilometro più avanti. Ma guarda che il traguardo c'è ancora. Vigilate.